Salve a tutti cari amici e benvenuti alla puntata numero 30 di Vagabondo in giro per il mondo. Anche oggi, mercoledì 10 maggio dell'anno politico 2017, al microfono per voi il vostro speaker Vagabondo Fumino, che questa settimana torna a occuparsi di un argomento già un po' analizzato in una delle puntate precedenti, non mi ricordo quando e mi chiedereste troppo se me lo dovessi ricordare così alla volée, per dire un termine tennistico, e dicevamo, e mi sono anche un po' perso, vabbè, ma questo fa parte del gioco, chi non si perde mai, e io chiaramente sono un uomo medio e di conseguenza mi perdo come succede a moltissimi. Ma detto questo, torniamo ad affrontare l'argomento di qui sopra e di conseguenza il giornalismo in parte, diciamo, questa puntata è dedicata al giornalismo, in parte no, perché io sto facendo caso da un po' di tempo e già da un po' che avevo intenzione di parlarvi di questa cosa, ma ho voluto aspettare proprio con volontà di attendere per continuare ad osservare il fenomeno, e osservo e alla fine mi sono deciso, ho detto ok, la butto là nel Vagabondo, perché magari qualcuno di voi ha avuto lo stesso pensiero, la stessa sensazione, lo stesso sentimento, non lo so, io proviamoci, io vi dico di cosa mi sono un po' accorto. Ma vi siete accorti ultimamente che sui media, quindi sui giornali, sulle televisioni, insomma in genere, da laddove vengono dispacciate le notizie di cronaca, bene, proprio là, sembra che in questo periodo storico non ci sia altro, o chiaramente anche questo è un modo di dire, gli assoluti non esistono, c'è molto altro anche nelle informazioni, però una cosa che su cui viene battuto molto il bastone di questi tempi sono le tragedie, meglio se familiari, vale a dire persone che, ahimè, uccidono i coniugi, quindi il marito che uccide la moglie, il fidanzato che uccide la ex e viceversa, e l'amante che uccide la moglie, quello e quell'altro, il genitore che uccide i figli e la mamma che si butta dalla finestra col bambino e il padre che il gas di scarico in macchina, insomma una tragedia allucinante. Già questa considerazione io l'avevo fatta tempo fa, sembra di leggere quella testata di cui non farò il nome per evitare pubblicità, però quella testata specializzata che io mi ricordo che veniva comprata settimanalmente dal mio nonno, pace all'anima sua, perché non so come mai si divertiva a leggere di tragedie e chi più ne ha più ne metta di qualsiasi ordine e grado, ma insomma quello era una testata settimanale dedicata specificatamente a questa cosa. E invece questo fenomeno io lo osservo, lo registro nei media normali, quindi nei giornali dove una volta, io mi ricordo quando ero piccino, si apriva il quotidiano e si partiva con le notizie di politica interna, poi c'erano le notizie di politica estera, poi c'era qualche notizia locale, qualcosa che era successo all'estero, quindi notizie estere, molto probabilmente politica internazionale e poi cronaca internazionale, l'immancabile sport e dulcis in fundo i programmi della televisione. Bene, sì, più o meno la cosa è questa, ma avete fatto caso che magari si parte ancora con la politica, o forse però la politica è scesa a pagina 7-8 più o meno, perché le prime 7 pagine sono di tragedie, e cade il ponte sulle macchie, e il genitore spara ai figli, e i fidanzati si... insomma una tragedia, un cimitero, le notizie di cronaca. Allora io la domanda che mi faccio è questa, cioè perché vi dico questo? Perché io mi faccio una domanda, sembra che stia succedendo solamente queste cose qui in questo periodo storico, ma è vero? Cioè abbiamo davvero così perso la bussola? Ci stiamo davvero le persone uccidendo uno con l'altro? Addirittura dei casi di suicidio molto interessanti, leggevo in questi giorni in Toscana addirittura il racconto scioccante di un macchinista di treno che un ragazzo di circa 18-19 anni se l'è ritrovato nel mezzo dei binari e questo pare che abbia iniziato a suonare il fischio del treno, e questo ragazzo come imbambolato lo fissava negli occhi addirittura, così ha detto il macchinista, prima ahimè di essere schiacciato dal treno. Chiaramente io mi faccio le domande, allora, ma queste cose sono sempre accadute, sempre nel senso con questa frequenza? Perché sì, chiaramente sono sempre accaduti i suicidi, sono sempre accadute le tragedie, ci mancherebbe, io non è che sto a dire che succedono da un giorno, però con questa frequenza, perché effettivamente ora come ora sembra che non succeda altro che queste cose qua? È un bollettino di guerra, una strage incredibile a leggere i media, io queste domande me le faccio, oppure i media pompano su queste cose per chissà quale motivo, e qui le porte che si aprono, le strade che si possono intraprendere analizzando questo fenomeno sono molteplici, però chiaramente la risposta non ce l'abbiamo, non essendo io, che ne so, non lo so, è solo una sensazione, probabilmente è anche sbagliata, ci mancherebbe altro, però questa sensazione ce l'ho, e allora queste domande io me le faccio, perché chiaramente se fosse che viene pilotata, diciamo, l'informazione, e l'informazione viene pilotata su altri argomenti, su altre cose, se ne ha anche già parlato negli appuntamenti precedenti del Vagabondo, ad esempio in politica l'informazione pilota chiaramente da una parte o dall'altra, oppure dalla stessa parte ma per una persona o per l'altra, basti vedere, che ne so, recenti tornazioni di voto più o meno importanti, o è chiaro che se in televisione, se nei giornali c'è sempre il solito nome, c'è sempre la solita faccia, le persone poi alla fine voteranno la persona che è stata più pubblicizzata, di cui si è parlato di più, e questo è una cosa abbastanza normale, è chiaro che stiano facendo questo, però non dico che lo facciano per bene, non dico che lo facciano per male, però chiaramente lo fanno. E detto questo, e allora se queste cose fossero decise anche sulla cronaca, bene, non lo so, c'è in previsione un qualcosa di cui ancora non sappiamo noi, però ad altri piani alcune cose magari le sappiamo un po' prima, e quindi di conseguenza iniziamo a sensibilizzare l'opinione pubblica su una cosa piuttosto che su un'altra. Ma vi ricordate, che ne so, qualche anno fa, io di questi esempi ne potrei fare veramente a decine, tanto da diventare noioso e tediarvi in 10 minuti di puntata del Vagabondo, ma io mi ricordo benissimo, che ne so, anni fa sembrava tutte le domeniche c'era la strage del sabato sera, tutte le domeniche nel giornale c'era scritto di una strage del sabato sera, sembrava che uscire in macchina fosse la cosa più pericolosa che un essere umano potesse fare, perché mettevi fuori la testa di casa, se eri a piedi non succedeva niente, se prendevi la macchina, boom, e ti veniva addosso il briaco, e ti veniva addosso il drogato, e quello non era né briaco né drogato, ma saltava un semaforo e ti schiacciava, e l'autista di camion si addormentava, e insomma era tutto un continuo di parlare di queste cose. E poi, pensandoci bene, poi un po' dopo sono arrivate leggi più o meno restrittive da questo punto di vista, che va bene, ci mancherebbe altro, perché cioè se una persona provoca un incidente e magari non si ferma, addirittura c'è l'omissione di soccorso, è un reato dal mio punto di vista gravissimo, che è estremamente corretto che il legislatore decida di punire in maniera esemplare, perché un incidente può capitare a tutti e tutti si sbaglia, tutti si può sbagliare, quindi l'imponderabile, figuriamoci, nessuno lo calcola, però quando succede ognuno è preferibile che si prenda le proprie responsabilità e chiaramente presti soccorso eventualmente alle persone coinvolte e eventualmente anche agli animali, perché effettivamente la legge parla anche dell'omissione di soccorso nei confronti degli animali, quindi non solo degli esseri umani. Quindi detto questo, a me questa cosa mi fa molto pensare, e ora sembra una strage, sembra che abbiamo perso la testa. Allora una parte, un punto di vista è questo, quindi i media spingono per farci sensibilizzare su questo argomento, bene, ma se invece fosse che davvero si è perso la testa, che davvero le persone abbiano uno stress, delle motivazioni particolari per cui ogni minima scintilla fanno esplodere un incendio che non riesci più a fermare, e quindi che ne so, quello viene licenziato, va a casa, boom, torna sul posto di lavoro con coltello e accoltella il datore di lavoro, oppure che ne so, quello viene mollato dalla fidanzata o dal fidanzato, perde la testa, va, magari se va bene c'è un po' di stalking, e poi magari addirittura questo lo stesso prende un'arma e si fa giustizia da solo, poi magari finisce in doppia tragedia perché uno probabilmente va in blackout, commette una sciocchezza incredibile come potrebbe essere quella di decidere di uccidere una persona, tanto più se la ami, figuriamoci, e quando l'hai fatto poi magari si riaccende la luce, prendi e ti spari pure per te, perché chiaramente uno dice guardi ma guarda che casino ho combinato, ma che banda è, e quello magari perde la testa, oppure gente che si uccide così, la fidanzata lo lascia, il fidanzato lo lascia, prende e si uccide, ma con quante donne, uomini che ci sono, ma che non vedrebbero altro che l'ora di mettere su famiglia, sposarsi, fare figlioli, impicciarsi e tutto quanto, e te perché ti ha lasciato una pigli e t'ammazzi, ma e questo è proprio un segnale, cioè si è perso la testa, si sta perdendo la testa. Il motivo per cui si perde la testa probabilmente è da ricercare nei ritmi di vita, probabilmente è da ricercare nelle insicurezze, nella competizione, perché siamo in una società estremamente competitiva, che non è competitiva la società, però ci fa sentire sempre in competizione gli uni con gli altri, tant'è che secondo me questa cosa dei social qui e là, e la gente che fa la foto alla bistecca cotta ai ferri, e la gente che fa la foto al piatto di pasta asciutta che ha cucinato, e quella che si fa i selfie con la bocca a culo di gallina prima di uscire di casa in bagno, cioè ma perché lo fate? Perché siete in competizione con voi stessi e con gli altri, poi mettete tutto su Facebook, mettete tutto su Instagram, su Twitter, ah sì guardate qua che bella bistecca al sangue mi sono cotto stasera e che belle carotine lesse, ma vai a farti un bel giro te, la tua bistecca e le tue carotine lesse, che a noi non ce ne frega assolutamente niente di quello che mangi e di chi l'ha cucinato e come. Quindi rilassatevi, non vi fate coinvolgere in queste cose perché probabilmente non vi fanno bene. Questo è un po' il mio punto di vista, chiaramente è solo il mio punto di vista e di conseguenza probabilmente anche sbagliato, ma tant'è. Questo è, tanto vi dovevo dire, era tanto che ci pensavo di dirvelo e adesso sono arrivato e ve l'ho detto. Quindi cari amici, anche per questa puntata è arrivato il momento del cafone vagabondo, ci vorrebbe una bella sigla che però non ho, e di conseguenza pensatela nella vostra testa qualsiasi sia. E il cafone vagabondo di oggi chi sarà mai? Beh, il cafone vagabondo di oggi è estremamente al femminile, perché sono esclusivamente le donne che sono protagoniste di questa cafonaggine. Qual è la cafonaggine in questione? Bene, torniamo al bar, perché chiaramente il bar è uno di quei posti dove il cafone si concentra, probabilmente anche socializza con altri cafoni, e se ce ne fosse la possibilità ci metterebbe su anche famiglia dentro il bar. Però la cafona di oggi, è giusto parlarne esclusivamente al femminile, è quella che va, chiede un buon caffè, se lo beve, ma ahimè ha una dose di rossetto sui labbri e lasciano quelle boccate di rossetto sulle tazze, una cosa allucinante, che quelle chiaramente il barista, se ha un po' d'occhio, le vede, le toglie a mano, perché chiaramente il rossetto chissà con cosa è fatto, non se ne va nemmeno in lavastoviglie, va tolto a mano, bene, e lì vabbè ci sta, quella è una cafona, perché si impiastriccia le labbra in questa maniera allucinante. Ma la cafona 2.0 della tazzina da caffè col rossetto è quella che si rende conto di aver sporcato la tazzina, prende un tovagliolino e cerca di, però siccome non ha realmente voglia, fa solo perché pensa di passare male, quindi non gliene frega assolutamente niente di ripulire la tazzina per venire incontro al povero barista di turno, cosa fa? Ne toglie proprio un pochino e un poco ce lo lascia, ancora meno, quasi invisibile. Quindi lì se il barista lo vede, altrimenti magari non se ne accorge, dalla rossoviglie non va via e ahimè si ritrova a servire magari un caffè con una tazza ancora sporca del rossetto, della cafona di cui abbiamo parlato. E grazie mille a cari amici per avermi ascoltato ancora fino a qua. La puntata numero 30 finisce qua e vi aspetto ancora fra una settimana sulle frequenze di Radio Big World per il nuovo appuntamento con Vagabondo in giro per il mondo. Nel frattempo usate poco rossetto e siate saggi!